Allora, ritentiamo, pronto? Ci senti? Sì, mi sento. Sì, e anche noi ti sentiamo, evviva! Dunque, ti chiediamo un aggiornamento del corteo di oggi, con intanto se ci puoi dire a che punto siete, da dove siete partiti, insomma da dove è partito. Dunque, il corteo è arrivato adesso alla Sion, quindi è appena finita la sfilata, però c'era veramente tantissima gente, diverse decine di migliaia di persone qua nel corteo parigino, e poi in tutta la Francia adesso non sto bene perché non ho avuto modo di controllare, ma nonostante ci sono state alcune cariche della polizia all'inizio del corteo, che ha cercato di spezzare un po', di isolare alcune ispezioni del corteo dalla manifestazione principale senza riuscirci. Poi dopo aver manifestato per le strade di Parigi, adesso il corteo è arrivato a Nation, c'è qualche movimento di piazza, ma niente da segnalare di particolare, ma comunque è una giornata sicuramente in cui c'era tantissima gente in strada, tantissimi percorsi diversi, tantissime situazioni diverse. È così sulla composizione. Comunque è sicuramente una giornata di successo. E sulla composizione della piazza ci puoi dare qualche informazione di più? Studenti, universitari, sindacati, se hai un quadro. C'erano gli universitari, sindacati. Anche tante persone di anche tante situazioni diverse, tutto il mondo dei movimenti, ma anche partiti, sindacati, sigle varie. Veramente oggi era una piazza in cui c'erano veramente tutti e tutte. E questi episodi. Sentite adesso questa agitazione intorno a me, cioè stanno partendo qualche lancio di oggetti contro la polizia che si è asserragliata in uno degli angoli del Place de la Nation. E in generale l'atteggiamento delle forze dell'ordine oggi come è stato? Qual è stato? Dunque, le forze dell'ordine hanno cercato subito dall'inizio di spezzare il corteo, di fare in modo di isolare alcune frange alla testa del corteo, con delle cariche molto violente, quasi a freddo, che sono partite subito all'inizio della manifestazione. Nonostante questo, il corteo è comunque rimasto compatto e ha proseguito il suo percorso. Poi durante il percorso non ci sono stati altre azioni da segnalare, e adesso alla fine sta, appunto, come in diretta proprio, sta avvenendo un lancio di un po' di oggetti contro le forze dell'ordine, che sono veramente asserragliati in uno degli angoli della piazza. Senti, ma il percorso di oggi qual era, e quali erano, diciamo, gli obiettivi, e perché erano stati scelti? È partita una carica dei compagni contro la polizia. Attenzione. Siamo a Place de la Nation, giusto? La situazione è un po' confusa, ecco. Okay, no, stanno cercando, i compagni stanno cercando di cacciare via la polizia dalla piazza. Lanci di oggetti, lanci di fumogeni. La polizia per adesso è retrocessa un po', è andata indietro, è arretrata rispetto, e ancora un plotone di CRS che si stanno chiudendo nell'angolia della piazza. Senti, ma numericamente l'apporto delle forze dell'ordine che è stato mandato in questa circostanza, più o meno riesci ad avere un'idea? Oggi era veramente un corteo enorme, con decine di persone in piazza, e quindi di conseguenza, nonostante il pezzo in cui sia arrivato, c'è ancora una buona metà del corteo che ancora sta arrivando nella piazza, che ancora sta confluendo. Ecco, adesso c'è un po' di confusione, forse la sentite. E qual erano, per ritornare alla cosa che ti stavo chiedendo, il percorso che il corteo ha fatto, gli obiettivi che si era dato e i motivi della scelta magari di un certo percorso e di certi punti in cui far passare? La manifestazione è partita da Place de la République, da dove da 10 giorni di fatto c'è l'occupazione di Place de la République, dove, che forse avrete letto anche in giro, sì, di cui sì, parlavamo sì, anche stamattina. E poi si è svolto il corteo fino a Nazione, uno dei percorsi classici delle manifestazioni parigine. Non c'erano particolari obiettivi durante il percorso, se non quello anche di fare una grande giornata di unità sindacale, politica, di movimento, di tutti i soggetti, tutte le persone che stanno manifestando in questi giorni. E per questa situazione si fa più vivace. I compagni e le compagne stanno veramente partendo contro la presenza delle forze dell'ordine nella piazza. Ma questi, e invece ti volevo chiedere se ci sono aggiornamenti sulla situazione degli arresti avvenuti durante le giornate di mobilitazione precedente, se c'è qualche. Questi che sentivate era un vero e proprio fuoco d'artificio. Sì. Rispetto agli arresti, che io sappia per adesso, ma purtroppo non ho avuto modo di controllare, per adesso nella giornata di oggi non ci sono stati ancora arresti, ma la situazione evolve veramente di secondo in secondo. Rispetto ai giorni scorsi, credo che ci siano ancora alcune persone in stato di arresto, alcune persone che hanno ricevuto una sorta di daspo, però però la situazione sta evolvendo veramente, quindi magari possiamo riaggiornarci più tardi. E quindi adesso il corteo rimarrà in Place de la Nation o sono previsti altri? Place de la Nation, sì, adesso la situazione è abbastanza calda, diciamo. Ecco, c'è veramente tantissima gente che sta protestando contro la presenza della polizia nella piazza. Sì, ci traduci qualcuno degli slogan che sentiamo in sottofondo? Ci traduci qualcuno degli slogan che sentiamo in sottofondo? Quello che sentite adesso, per esempio, è Flick Cop Assassin, vuol dire assassino. Aspetta che ti tanti slogan contro anche l'elite politica che governa la Francia, ci sono veramente tante rivendicazioni in piazza che si mettono anche nell'azione, è veramente qualcosa di eccezionale. Senti, sulla partecipazione anche dai territori che circondano Parigi, hai modo di dirci qualcosa sulla presenza di persone provenienti dalle periferie, se hanno preso parte? Ti ho perso? Non ti sento bene, ecco, la situazione è molto caotica, sì, infatti, penso che sia meglio risentirci poi, sì, allora, poi tra un poco. Va bene, allora ci riaggiorniamo più tardi, intanto grazie e buona continuazione. Grazie a voi. Ciao. Ciao.